Ancora più saldi a MacArthur Glen la Reggia Designer Outlet. Non lasciarti scappare gli extra sconti sui prezzi outlet dei fashion brand più amati e vivi tutte le emozioni di un'estate di shopping. Vieni a trovarci, MacArthur Glen, Destination Joy. E scopri Art Safari, un'invasione di animali colorati che farà divertire grandi e piccini. Runtime Radio presenta Quando eravamo il futuro. Programma antologico, monodirezionale e spazio-temporalmente dislocato a cura di Carlo Sant'Agostino, Roberto Tomaiuolo, Davide Gatti e Simone Pizzi. E benvenuti carissimi amici di Runtime Radio, ancora una volta un appuntamento con Quando eravamo futuro, ancora una volta qui su Runtime Radio, www.runtimeradio.it, la web radio geek, qui noi facciamo sempre più live, sempre più radio, soltanto per farvi compagnia e soprattutto perché a volte non abbiamo un caso da fare, ma questo è un altro discorso. Con me in questa bellissima, meravigliosa puntata che ci siamo apprestando a fare, c'è Carlo Sant'Agostino. Ciao Carlo. Sempre più in alto. Bravo, grappa bocchino. Allegria. Allegria. Davide Gatti. Buonasera, buonasera. Io non riesco a fare un incipit così no, freddo. No, perché c'hai ancora la forma del cuscino in faccia, giustamente. Esatto. E poi l'autore della puntata, Roberto De Boss Tomaiuolos. Io invece sono per la parte che mi sto appestando più che altro. Spargi. Spargi virus in ogni loco, in ogni dove. Vabbè, queste sono cose che purtroppo di questi tempi non è così strano, tutto sommato. Perché una volta, cazzo, sono preso il COVID e vabbè. Invece oggi penso che sia con questi numeri. Insomma, è un dato di fatto che ci tocca a tutti, dai. Però vaccinatevi. So che questo non è un messaggio che bisognerebbe veicolare in una trasmissione così generalista come la nostra, ma noi abbiamo le nostre idee. Noi lo veicoliamo lo stesso. Io vi dico che ho avuto un lievissimo raffreddore e non ho infettato nessuna delle persone che erano vicine a me. Magari sicuramente, però io credo che i vaccini abbiano fatto la loro parte. Beh sì, indubbiamente hanno fatto la loro parte. Cioè la funzione del vaccino non è quello di non prendersi il COVID, ma è quello ovviamente di limitare i danni che il COVID possa fare. Insomma, essere immunizzati è importante. Comunque non entriamo in questo discorso. Io comunque qui tutti terza vaccino, quindi siamo abbastanza tutto. Ma io invece l'avevi già fatto il terzo vaccino. Sì. Sì, a posto. Sì. Sono la rottura del ballo. Siamo tutti a posto. Terzi vaccinati. Abbiamo tutto il booster. Bene, che è il motorino il poi il booster, no? Cioè, il famoso motorino. Oltre al cellulare 5G, abbiamo anche il motorino adesso. Esatto. Cioè, esatto. Prima era il 5G, esatto. E poi adesso. E i tatu quantici, vabbè, quella era la prima dose. Nel senso. Siamo stati tatuati quanticamente, che è una cosa abbastanza importante. Allora ragazzi, questa è una puntata molto carina, veramente molto carina, anche se in realtà secondo me bisogna un attimo fare ordine nel nostro documento editoriale, perché ho la sensazione che ci stiamo un po' come girando intorno sempre, insomma, sulle stesse cose, perché qualcosa di questa puntata io mi ricordo che già l'abbiamo trattata, però in realtà chi se ne frega, ma noi possiamo anche decidere di ritrattare la stessa puntata altre due o tre volte. Però è una puntata molto molto molto carina e mi piace, sono contento, perché adesso diamo la parola a Roberto che farà la sua introduzione. Però ricordate che gli anni 70 e la televisione negli anni 70 in particolare hanno rappresentato un'importante transizione nel nostro paese, una di quelle transizioni che non erano solo culturali ma erano anche abitudinarie, comportamentali, insomma. E quindi insomma sarà bello parlare di questo episodio. Sempre prima di parlare ovviamente di questo episodio in particolare, invece voglio un secondo leggere e ringraziare una persona che giustamente mi ha mandato un messaggio su WhatsApp, Marco Paglia, che è una persona che ci ascolta veramente da sempre praticamente, che mi ha scritto questo messaggio su WhatsApp. Allora, ciao Simone, buon anno, sto ascoltando la puntata di Quando eravamo futuro sul Subbuteo. Da poco ho recuperato una VHS, nel 98, scusate, uscita con un set dei mondiali di Francia. C'era addirittura Gabrini che faceva la presentazione, qualcosa, vabbè, l'ha caricata su YouTube. Adesso io il link ve lo metto sulla chat. E quando l'ho visto, tra l'altro, prima di tutto grazie Marco, e grazie del pensiero, grazie di averla caricata, e soprattutto grazie di permetterci anche di condividere, perché è comunque un bel documento. Ma la cosa carina è che in realtà io queste cassette me le ricordo, cioè mi ricordo questa cosa. Non giocavo più al Subbuteo, non ce l'avevo, però mi ricordo di questa roba qua. E tra l'altro, giustamente, anche con Davide Gatti ce lo siamo visto pure. Davide dice: ma questo era l'umorismo degli anni 90. In realtà, esatto. In realtà, secondo me, come al solito in Italia, un po' si sbaglia il target di un certo determinato tipo di prodotto, perché il tizio che fa tutta la parte introduttiva, che fa tutto il simpatico, il comico, in realtà secondo me lo fa un po' con quella comicità per bambini piuttosto che... ed era imbarazzante, ed è imbarazzante guardarlo. Secondo me era imbarazzante anche allora, devo dire la verità, non credo, esatto. Insomma, che comunque salutiamo anche in chat Michela e Walter Sbano che ci stanno ascoltando, e Roberto Domaiolo pure, che c'è pure in chat, quindi insomma, vabbè, comunque bentornati, buona Befana a tutti, buon anno, e Roberto, tocca a te. Sì, in tutto questo non abbiamo ancora detto di quello di cui parleremo oggi, quindi ve lo dico appunto, io appunto, tutto passato la parola apposta, parleremo degli spot pubblicitari. Abbiamo deciso di dividere la trasmissione anche qui perlomeno in due tranche, se non tre, vedremo. E quindi partiamo dagli anni 70, adesso vedremo un po' di cose. Come diceva giustamente prima Simone, inevitabilmente in parte abbiamo già parlato di alcune di queste cose, però magari cerchiamo questa volta di inquadrarle in maniera diversa, cioè di parlare appunto degli spot, della pubblicità, e ovviamente di quello che noi ci ricordiamo, di quello che voleva dire per noi. Quindi anni 70, noi tutti insomma eravamo bambini, Davide un po' più grande come al solito, questo non cambia durante le puntate, e quindi non può cambiare, è inevitabile, quindi sì. Magari è inevitabile, magari potrebbe avere un e avrà un ricordo anche diverso grazie a questo fatto, e questo è anche interessante secondo me. E quindi cominciamo. Anticipo che come al solito io ho fatto il documento, il buon Carlo, come fa per qualunque cosa, ha fatto le sue note che io ho bellamente ignorato, quindi ce le dirà dopo lui quando gli daremo la parola, perché vabbè, no, in realtà purtroppo questo periodo, guarda, durante le feste si ha meno tempo di quanto poi in realtà si ha quando si lavora, è una cosa incredibile, ma è così, è vero. Allora andiamo, si può dire che il marketing come lo conosciamo oggi è nato agli inizi del Novecento con i manifesti pubblicitari. Questo insomma credo sia abbastanza evidente a tutti, manifesti pubblicitari e riviste fondamentalmente. Quindi le produzioni grafiche erano parte dell'immaginario collettivo grazie all'editoria di massa, e ben presto si intuì che c'era tutta una psicologia dietro all'interesse che i manifesti pubblicitari suscitavano nel loro pubblico. Con il giusto coinvolgimento, le immagini potevano essere usate per orientare il comportamento di chi le vedeva. Perché? Perché la cartellonistica di inizio secolo mostrava situazioni di piacere, di benessere e di divertimento della bella società, e la scenografia era raffinata. I manifesti avevano cifre stilistiche simili a quelle dei quadri. In quest'ottica, all'inizio, il manifesto pubblicitario serviva a suggerire che ci fosse un nesso tra il prodotto pubblicizzato e le persone che lo avrebbero consumato. E questa intuizione, appunto, segna l'inizio del marketing come lo conosciamo oggi e della psicologia della pubblicità. Si passa dalla réclame, che essenzialmente si limitava ad informare dell'esistenza di un certo prodotto, alla necessità, durante il boom economico, di convincere il consumatore a comprare. E in particolare negli anni 70, Carlo mi ha fatto giustamente notare che non è che comincia negli anni 70, però in particolare negli anni 70 i cartelloni pubblicitari cominciano sempre di più a trasformarsi in spot televisivi, in particolare con il famoso Carosello, che è stato in onda ed è stata una trasmissione di un format di grandissimo successo fino al 1977. Per arrivare poi alla fine degli anni 70 e all'inizio degli anni 80, gli spot che diventano a colori e sempre più corti, si arriva anche ad avere spot di 15 secondi. Tenete presente il carosello arriva a spot anche di molti minuti, spot, non sono spot in realtà, erano cortometraggi, delle situazioni, dei cortometraggi di molti minuti in cui la parte pubblicitaria in realtà era piccola, di solito verso la fine del cortometraggio stesso. Infatti il carosello è molto importante di quello che parliamo oggi, soprattutto in Italia. Pubblicità negli anni 70 in gran parte voleva dire carosello, questo è un dato di fatto. E quindi il carosello, molto amato dai bambini, consisteva in una serie di filmati, per lo più sketch comici e animazioni, seguiti appunto da messaggi pubblicitari. Andava in onda di solito dalle 20.50 alle 21 e funzionò benissimo, come abbiamo detto, per una ventina d'anni. La trama dello sketch di solito doveva essere estranea al prodotto pubblicizzato, mentre la reclame, e qui uso appunto questo verbo che si usava molto di più prima, quando il francese era più, sì, che poi da noi si diceva reclame, perché mia nonna diceva la reclame, non diceva la reclame, capito? Cioè, nel senso, si scrive reclame, si diceva reclame, oh, c'è la reclame, me la faccio in gomma, esatto, bravo. La reclame vera e propria aveva una durata in secondi e un numero di citazioni del nome del prodotto che erano prestabilite dalla Rai e brevi. Forse non era una cosa bruttissima, comunque. E quindi magari prima di partire, insomma, con un po' di esempi che ci siamo procurati, magari vogliamo fare un giro fra di noi per vedere cosa ci ricordiamo di queste cose degli anni 70 del carosello. Che sì, guarda, parto io che sono più, cioè, vado abbastanza spedito su questa cosa. E in realtà prima durante la prediretta con Carlo giustamente ragionavamo il fatto che il carosello in realtà in Italia è finito nel 77 e ci sembra strano che, essendo finito così presto rispetto alla nostra giovane età, diciamo così, ce lo ricordiamo, perché comunque ce lo ricordiamo. E io rientro un po' su quello che ho detto a inizio puntata, il fatto che il carosello ha segnato, e la fine del carosello in qualche maniera ha segnato una transizione dal punto di vista anche comportamentale, perché avrete sicuramente sentito dire la frase, famosa frase, dopo il carosello tutti a letto o tutti a dormire, che era comunque un dato di fatto, cioè nel senso, noi ragazzini rimanevamo svegli fino a vedere il carosello, che secondo me è stata una delle grandi trovate della televisione italiana, perché creava comunque intrattenimento con la pubblicità, cioè nel senso, era pubblicità, però era una pubblicità che intratteneva, e c'erano i cartoni animati, così come c'erano gli sketch simpatici, le cose un po' più seriose, magari un po' più stile giallo, cioè c'era tutta una serie di cose che alla fine riempivano quello spazio in maniera, secondo me, bella. E chi ha vissuto il carosello, secondo me, non può non essere affezionato al periodo del carosello, che appunto ha segnato un'epoca e ha segnato sicuramente una transizione comportamentale. Carlo? Vero, tutto vero. Infatti noi abbiamo impresse nella nostra memoria a lungo termine tutta una serie non gli spot, come si chiama, quando dici il claim, no? Non mi viene la parola in italiano. La reclame. No, proprio il claim. Il tormentone. Il tormentone, bravo, in italiano viene il tormentone, bravissimo. Bravo, sì. Che io mi accorgo nella mia vita, cioè che noi questi tormentoni che abbiamo subito prima nel carosello, poi dopo nella pubblicità delle TV commerciali che ci siamo sorbiti, perché noi ricordiamo, abbiamo visto la nascita delle televisioni commerciali in Italia, che prima non esistevano, esisteva solo la TV pubblica, poi quando noi eravamo piccoli, comunque ragazzini, è nata la TV commerciale, prima locale e poi addirittura nazionale. E lì il motore era la pubblicità, quindi ti beccavi pubblicità, sponsor, pubblicità sempre. E questi tormentoni sono così fissati nella mia memoria, ma anche in quella dei miei coetanei, che praticamente sono diventati tutta una serie di modi di dire, modi di parlare, e quando noi parliamo, diciamo qualcosa, ci viene in mente, non so, provare per credere, per esempio. Sì, sì, sì. Anche se in realtà già siamo più in là, no? Generazionali, perché sì. Poi mi accorgo che, esatto, parlando poi con i ragazzi più giovani di noi, mi accorgo a volte che ovviamente alcune cose loro non sanno che cazzo sto dicendo, quindi quando io poi dico una frase tipo provare per credere oppure garantito al limone, per tornare ancora più indietro, mi guardano strano dicendo cosa? Vabbè, però questo è sempre stato così, nei passaggi generazionali, giustamente. Tra l'altro in questa puntata che ha preparato Roberto, quindi ha preparato tutto il materiale, devo dire, ascolteremo molte cose, alcune cose sono un po' più lunghette perché chiaramente, come abbiamo detto, i caroselli sono un po' più dilatati rispetto allo spot normale, ma vedrete, perlomeno fra di noi, che molte delle cose che ascolteremo le canticchieremo perché ce le abbiamo impresse oramai nei neuroni della nostra mente. Davide. Ma io allora più o meno un po' mi ributto a dire un po' quello che avete detto, aggiungo che il mio ricordo della pubblicità negli anni 70, come probabilmente tutti voi, la programmazione non era vissuta come le reclame, la pubblicità, una cosa fastidiosa come oggi siamo abituati a vederla, ma faceva appunto parte della programmazione televisiva e non erano intermezzi fastidiosi che avessi dovuto saltare, anzi, era proprio, addirittura per noi bambini era quasi una novità e volevamo proprio vederla, cioè per cui sì, anche perché il carosello non era un'interruzione, cioè nel senso che il carosello era proprio uno spazio dedicato a quello e basta. Sì, quindi la si guardava, la si commentava, se ne parlava a scuola con gli amici, hai visto la reclame del prodotto tal dei tali, eccetera eccetera. Alcuni personaggi sono diventati pupazzi venduti nei negozi di giocattoli, cioè era parte della programmazione, un po' ne abbiamo parlato probabilmente nella TV dei ragazzi eccetera, era una come dire una seconda parte della TV dei ragazzi, se vogliamo, alternativa, dove ancora si faceva intrattenimento, spesso per i bambini tra l'altro, e quindi la si guardava, era una roba da vedere e mi ricordo questo paradigma che è l'inverso di quello che invece adesso è la pubblicità praticamente, cioè adesso nessuno la vuole vedere la pubblicità, se non ci fosse sarebbero tutti felici, invece all'epoca se non c'era mancava qualcosa. E quindi vabbè, questo era che poi è un riassunto di quello che più o meno abbiamo già detto tutti, ecco. Intanto salutiamo in chat Claudio che ci è venuto ad ascoltare e... ciao allora, Claudio, bella Claudio, buon anno, è un mio collega di lavoro, ok, perfetto, per la cronaca, perfetto, quindi... perfetto, vai Roberto, mi dispiace. Allora io partirei. Ma chi lo allora, io partirei subito con il primo contributo che i meno giovani ricorderanno, quindi parliamo di Carmencita. Vai Simone, ce l'hai. Nella pampa sconfinata, dove le pistole dettano legge, il cavallero misterioso cerca la bellissima donna che ha visto sul giornale. S'ode un grido nella pampa. Carmencita, abita qui! Tre tipaci l'hanno presa, mentre andava a fare la spesa. Dove la donna? Chi ha visto Carmencita? Non lo so, forse è partita. Barba? Forse è andata dalla zia! Sarà in cerca d'allegria! Sarà sola o in compagnia? Dov'è la donna? Ehi ragazzi, mi puzzate! Cosa sono queste occhiate? È una banda di falsari! Per vietarmi di parlare, mi volevano ammazzare. Cavallero, che pistola! Chi è con lei non è mai sola. Bambina, sei già mia. Chiudi il gas e vieni via. Pazzo, l'uomo che amo è un uomo molto in vista. È forte, bruno e ha il baffo che conquista. Amore, quell'uomo son mi. Paulista, amore mio. Caffè, Paulista. Paulista in vuoto. E vabbè, cioè, qui c'è da dire due cose, poi lascio la parola a Roberto. Prima cosa è che c'è una costruzione creativa, artistica su questi spot veramente impressionante, anche se questo è un po' uno dei più confusionari, no? E due, che comunque, cioè, forse vederli aiuterebbe, però noi abbiamo l'audio e quindi ve l'ascoltate, insomma, per quello che è, insomma. Vai, Roberto. No, niente, allora, è uno spot pubblicitario che è andato in onda dal 65 al 73 e reclamizzava, ovviamente, come abbiamo sentito, il caffè della Lavazza paulista. Ah, quindi, caffè, no, perché avevo sentito il pistolone, così pensavo fosse sì, qualcosa. È anche ambigua, molto ambigua per gli anni 60. È ambigua. E la storia per protagonista, abbiamo sentito il cosiddetto caballero misterioso, che solo alla fine si rivelerà per essere paulista, e quindi la buona Carmencita, o bella Carmencita, a questo punto si innamorerà di tant'uomo, del caballero. Con quella pistola grande, sì, esatto. Che poi, tra l'altro, dov'è la donna? Cioè, pure esatto, il linguaggio, cioè, capito? Sì. È veramente un altro mondo. Sì. Ricordiamo oggi che era un'animazione fatta da dei coni molto semplici, sì, di carta, era tutto fatto di carta, molto semplice, bellissimi, sono sì. Comunque delle opere d'arte in un certo modo, alcune come vedremo più avanti nemmeno tanto piccole, però erano delle cose belle, divertenti, eleganti, come giustamente credo ci stia scrivendo Claudio. E a questo punto ne mettiamo un altro che è molto famoso, più che altro per il ritornello. Se lo metti un attimo, Simone, poi raccontiamo un po' di storie che pochi sanno e che hanno anche a che vedere con un famoso industriale del computer italiano. Quindi parliamo di Don Bairo. Dal diario di Frate Notizia. Oggi fu il giorno di letizia per lo convento e per li frati tutti, che giù nel bosco ci recammo uniti a tagliar legna dagli alberi insecchiti. Avanza come suole Cimabue, che se una cosa fa, ne sbaglia due. Lo primo tentativo è sfortunato, e Cimabue restette inalberato. Cimabue, fai una cosa, ne sbagli due. Ma Cimabue non resta affatto afflitto, or prende a mazzolare in lungo e in largo, svegliando un orso bruno dal letargo. Anche stavolta senza rifiatare, per alte quote prende su a volare. Ma che cagnara! Sbagliando si impara! Andammo alla ricerca in 22, e quando ritrovammo Cimabue, frate priore, che è un intenditore, tirò fuori un liquore al mondo raro. Così nacque Don Bairo, l'uva amaro. Don Bairo! Anno di grazia 1452. E vabbè, questo si ricollega a quello che dicevo prima. Infatti, Cimabue, fai una cosa, ne sbagli due, era diventato un modo di dire. Sì. Assolutamente. Sì, il refrain che ti rimane assolutamente in testa, che ancora adesso, voglio dire, dopo tantissimi anni. Chissà esatto. Se queste pubblicità poi facevano veramente comprare il prodotto o no. Assolutamente sì. Ma io penso che sì, è molto di più da adesso, tanto, anche perché tanto. La quantità di pubblicità e di prodotti che si potevano permettere la pubblicità erano comunque inferiori rispetto ad oggi, no? Cioè, quindi bene o male oggi, se tu ascolti radio, televisioni, vai al cinema, quante cose tu vedi pubblicizzate. In realtà sul carosello, secondo me, cioè io perlomeno nella mia esperienza, sono quelle 7, 8, 10 cose che mi ricordo in particolare, che sicuramente le compravi perché le vedevi sul carosello, e come dice anche Carlo, perché canticchiavi il ritornello, la strofa, capito? Quindi è assolutamente, perché veniva in me. Ma poi comunque, una pubblicità azzeccata all'epoca, quindi non attualmente, che è cambiato tutto, quindi non parliamo di questo periodo storico in particolare, ma negli anni 70-80, causava un successo a dismisura del prodotto. Infatti ci furono casi proprio che vennero poi studiati nei libri, come per esempio il caso della Simac. Ve lo ricordate, la pasta Matic, la forza di 20 braccia? No, la forza di 1000 braccia era. Ho 20 braccia. Era 20, ok. 20 no. braccia, però comunque, comunque Pastamatic con quella pubblicità ebbe talmente tanto successo che fece fallire l'azienda. Mi sembra un assurdo, ma è così, perché il numero della domanda superò di tantissimo la possibile produzione dell'azienda, che non riuscì poi a consegnare il materiale alle linee di supermercato. Io mi ricordo questo tavolo rettangolare con tutti sti cuochi che facevano la pasta e con la macchina, esatto, in mezzo che mia che... mamma ce l'aveva, ma non so, tutti ce l'avevano, tutti. Io. Fa lì la prima Simac, fa lì poi vabbè la rifondarono e ne fecero una altre, proseguì poi dopo, però la prima Simac, che era una piccola azienda, non si aspettava il successo dato dalla pubblicità che fece, e quindi calcolarono male, insomma, il ritorno pubblicitario. Diciamo che all'epoca forse non c'erano neanche gli elementi per fare questi calcoli. Sì, no, infatti si parla, infatti poi è diventato un caso studiato poi nei manuali di marketing, insomma, dell'epoca. E invece veniamo a Don Bairo, che è una distilleria che nasce nel 1882 per iniziativa del barone Eugenio Vagina de Marese. Dai, grande. E fin qui. È già qui. Ed era comunque abbastanza noto, era un amaro a base d'uva. Salve signor Vagina, come sta? Tutto bene? Salve, In seguito, dopo una serie di cambiamenti, nella compagine societaria si inserì una cosa che si chiama IRUR, che è l'Istituto per il Rinnovamento Urbano e Rurale. No, scusa, ma oramai la trasmissione della puttana. Partito con la vagina, lo so. Non mi sono immaginato vagina. Ma ora devi diventare serio, perché IRUR era una creazione di Adriano Olivetti. Ah, vedi. Interessante. Quindi per un certo periodo fu nella compagine societaria, poi alla morte purtroppo di Olivetti l'IRUR si sciolse, e anche questa distilleria, anche altre cose furono vendute, e così nacque, all'inizio si chiamava Amaro Bairo, poi diventò Don con la N Bairo, e poi infine Dom Bairo, che è quello che abbiamo sentito. Esatto. Mi sta uscendo il sangue dal naso. Ah, no. Per una vagina, mamma mia. Cioè, questo è un ictus, però, il sangue dal naso. Vabbè, riprenditi, Carlo, facci sapere se ritorni tra di noi. Mi è venuto in mente che la signor vagina sposa la signora pene, e la vagina in pene. Oh, vabbè, qui mettiti francamente. Allora, no, però posso dire solo una cosa, che io gli auguro di non essere mai andato a scuola al signor Vagina, perché veramente penso che sarebbe stata una brutta la vita, Ma tanto è un barone che gli è fatto. No, era un barone, studiava a casa, aveva insegnanti privati. Terzo di Brancamenta, due terzi di acqua o seltz e sempre ghiaccio. Niente migliore il ghiaccio come Brancamenta. Brancamenta. Non c'entra il barone vagina, però voglio dire, alcuni richiami permangono. Comunque è un diciamo che Brancamenta ce la siamo portata per almeno altri 20 anni con proprio, cioè lo era un logo proprio Brancamenta, no? Perché cioè, tutta questa cosa che tu immaginavi, ghiacciolo che viaggiava, esatto, tu ti immaginavi di berti un bicchiere di menta, invece era un amaraccio. Però vai. Vabbè, la versione aromatizzata del Fernet Branca. Sì, buono comunque. Brancamenta. Io sono stempo, l'ho mai bevuto, però no, io l'ho bevuto, però è la pubblicità molto riuscita, appunto, come migliorare il ghiaccio. Infatti stavo dicendo come migliorare il ghiaccio, bestiale, davvero. C'è un commento che dice, in riferimento a prima che stava esplodendo Carlo, quando una trasmissione va in mona. Sì, c'è il rischio, anche se aiuto. Basta. Anche se ne abbiamo avute trasmissioni che a un certo punto hanno preso proprio, sono andate proprio per conto loro, quindi sono successe nel passato. Oggi siamo diventati più grandi, più seri, cerchiamo di non farlo. Soprattutto che non sentite il fuori onda. A questo punto l'opera d'arte, se non avete altro da aggiungere, anche perché ne abbiamo molti, io passerei a... No, anche se però devo dire che io Brancamenta c'ero molto affezionato, perché voi sapete che io poi ero un appassionato di menta in generale, no? E quindi tutto ciò che aveva a che fare con la menta per me era... E sta pubblicità me... Cioè, hai un animo torinese praticamente. Torinese, perché mento? No, perché? No. Ma tu quindi, non lo sai? Una cosa che conosci e che hai preso al bar abitualmente? Lo sai sempre. Che a Torino la menta è fondamentale? No, non lo sapevo. Non lo sapevo. Acqua e menta è proprio tipico di... Conosciuta. Vabbè, io acqua e menta la facevo negli anni 70. Tra l'altro io mi ricordo questa cosa, che siccome che poi ero un appassionato, cioè mi piaceva il sapore della menta, ero un iper appassionato del colore verde, cioè questa è rimasta ancora oggi, e mi ricordo che praticamente mia madre faceva fare latte e menta anche, e praticamente quando andavamo al bar mi faceva fare questo bicchiere di acqua e menta e diceva che era il cappuccino verde. Tutti bevevano il cappuccino marrone, io avevo il cappuccino verde perché praticamente mi piaceva il verde. E per me, per tantissimi anni, latte e menta si chiamava il cappuccino verde. Lo so che è una storia tristissima questa cosa, però. Ma quindi tu sei uno di quelli che, sai quando si prendono i ghiaccioli di tutti i colori, c'è sempre quello verde che non vuole mai nessuno alla menta? Alla menta, perché sì, io solo la menta. Solo la menta mangio, sì. Ottimo. È buono. Allora saresti un buon compagno, che rimangono lì sempre quelli verdi. Beh, c'erano anche quelli azzurri. Cos'era quell'azzurro? Ma quello era buono, ma l'anice era buono, dai. Vabbè, fa cagare l'anice. No, io quello azzurro addirittura neanche me lo ricordo. So solo che al Mare da Me il barista, che praticamente c'aveva tutti questi ghiaccioli, tutti dentro al frigo, gli dicevo: mi dai quello alla menta? E questo ti tirava fuori, che ne so, quello all'arancia. Dice: no, ma io quello alla menta. Cioè, io sono daltonico, nei vedi i colori, mi piado da solo. C'era il tamarindo e c'era l'orzata. L'arancia. Il tamarindo è quello che quando si sbagliavano, che chiedevi quello alla Coca-Cola, ti davano quello al tamarindo. Io ho un ricordo del tamarindo orripilante. Ero in Germania, mi ricordo, a Hockenheim, a vedere una gara da ragazzo, a vedere una gara di Formula 1. Tutto chiuso. L'unica cosa che siamo riusciti a trovare bevibile, cioè di liquido, era una strana bottiglia che era tamarindo concentrato. Porca. Che è imbevibile. Attenzione, che abbiamo un commento di Giuseppe V in chat che dice: salve a tutti, io della pubblicità di Brancamenta mi ricordo la gnocca che si faceva la doccia. Io questa cosa non me la ricordo. Ah, neanche io. Attenzione. Io mi ricordo un cubetto di ghiaccio che cadeva tra le tette, no? No. Quella era l'altra. No. Sì. Io mi ricordo il cubone di ghiaccio che lo scolpivi, sì, e facevano. Vabbè, quello si iniziava così, però c'era questo ghiacciolo che brrr, i brividi, non so dove andava, nella schiena forse. Sì, che poi nell'immaginario, nel noi essere poco abituati a questo rapporto multimediale, multisensoriale, ci immaginavamo che sta Brancamenta, quando tu c'avevi caldo, te rinfrescava tutto il mondo. Cioè, tu bastava e tiravi fuori una bottiglia di Brancamenta, era come accendere l'aria condizionata dentro la stanza, stessa cosa. Cioè. Quindi c'è questo immaginario. Ah, così. Ma è del 91 quello che dicevo. Sì, quello del 91. Cioè, questa allora, anni 70, scusa. No, era più pudico. Era un po' allora, più pudico. Veniamo a quella dopo. Anche se della linea ne abbiamo parlato accuratamente in una puntata dedicata ovviamente alla TV dei ragazzi. Però c'è stato questo connubio a un certo punto, tant'è che per me la linea per anni si chiamava Lagostina, cioè nel senso, per me era le pentole Lagostina. Esatto. Vai Roberto. No, vai prima con il contributo, anche se non so quello che, vabbè. La Lagostina. Tu tu tu tu tu tu tu tu. Tu ricerca la. Ah, sì, Mario. La Comunque è tutta così, eh. È la linea. È la linea, quindi la linea. Stiamo parlando chiaramente di linea di, del mitico Osvaldo Cavandoli. Ma si Cavandoli. Può sapere cosa c'è? Che aspetta, propose... aspetta. L'Agostina, la cerca e qui la trova. Sì, questo è il marchio di garanzia del fondo Termoplan della pentola pressione L'Agostina. Termoplan. L'Agostina ha una passione. Concentrare più sapore in metà tempo. E potete preparare tanti, tanti, tanti piatti appetitosi in metà tempo con la pentola a pressione L'Agostina. L'Agostina. Niente, la pentola a pressione che io mi ricordo costavano una casa praticamente. Un miliardo. Sì, costavano tipo un appartamento. Io ce l'ho ancora dell'Agostina proprio. E quindi qui il mitico Cavandoli aveva proposto ad alcune agenzie pubblicitarie il Mister Linea, si chiamava, proprio per il carosello. E l'ingegner Emilio L'Agostina, che era un noto collezionista d'arte e chiaramente anche il proprietario dell'industria di pentole, si innamorò insomma di questa cosa e la volle come pubblicità per la sua impresa. E quindi nasce la famosa linea, nasce proprio così. Poi sappiamo che c'è stato la pubblicità ha avuto un successo enorme e Linea avrà un successo enorme mondiale, in alcuni paesi addirittura quasi più che in Italia. So che sembra incredibile, ma è così, in alcuni paesi dell'est ha avuto un successo pazzesco. Quel biascicare che sentivamo, sì, è una specie di gramellò in lombardo, milanese, dialetto milanese accelerato. Infatti nella pubblicità a un certo punto si sente ciapalà, prendila, sarebbe ogni tanto si capisce in qualche parola in accento milanese lombardo, esatto. Ed è una cosa anche poetica. Alcuni, se insomma se vi capita di riguardarlo, alcuni degli episodi sono davvero belli, eleganti e anche moderni a mio modo di vedere. Ma solo perché parlava lombardo, però, chiaramente, perché sennò... solo perché parlava lombardo. Anche se sono curioso di vedere Menomano, che è il nome in Ungheria, oppure Bandun Badum in Slovenia. La linea che parlava sempre lombardo, questo. E tanto era un gramlo che non si capiva niente. Sì, tanto era un assicato, esatto. È come il Simlish praticamente, era un finto, esatto, linguaggio, esatto. Come Pengu, il linguaggio di Pengu, e andiamo avanti con un lievito questa volta. Vai con per favore, Simone. Bertolini presenta Le avventure di Maria Rosa. Brava, brava Maria Rosa, ciclamino, poverino morendo in mezzo al prato. Ci sei tu. Maria Rosa, dalla corda al suo scimmiotto. Maria Rosa, dalla corda al suo scimmiotto. Lo scimmiotto camminando batte piatti ta-ta-ta, pizzicando il calabrone che scornato se ne va. Ma 10, 100, 1000 torte puoi fare con il lievito Bertolini. 1000 torte fatte in casa con ingredienti freschi, genuini. Con Bertolini preparate anche torte salate e pizze favolose. Bertolini. Allora, secondo me questo spot in particolare è indice spot, questo carosello, insomma, diciamo così, è indice di quanto funzionava questa cosa, perché come ha detto Roberto giustamente, all'interno di tutta l'animazione, no, di tutta la parte filmata o di cartone animato che c'era in queste opere, non c'era riferimento al prodotto direttamente, però il prodotto veniva citato alla fine e il personaggio protagonista del cortometraggio di solito era comunque parte integrante dell'immagine che c'era sul prodotto quando lo andavi a comprare, quindi comunque era un cerchio, una sorta di veramente di matrimonio che funzionava bene. E quanto era vero questo, il collegamento, te lo dimostro con la sfortuna di un mio compagno di classe elementari che si chiamava Bertolini di cognome. Certo. Si diceva Bertolini e tutti Maria Rosa, brava Maria Rosa. Questo non ce la faceva più, ovviamente. Povero Stefano Paganini e il suo hard disk. Paganini ogni volta che c'era una direzione d'orchestra o Paganini non ripete, musica. esatto. Non ripeto. Comunque Bertolini è una ditta italiana e Antonio Bertolini ebbe una grande idea all'inizio del secolo, che fu quella di creare una bustina monodose di lievito, cosa che oggi appare assolutamente normale, però prima di allora le massaie che volevano preparare dei dolci dovevano mettere praticamente ad occhio un pizzico di bicarbonato. La lievitazione quindi, naturale, poi alla fine, quindi ci metteva il triplo del tempo. Casuale, perché la metà delle volte certo. Non veniva. Cioè, Claudio ci dice che la voce della linea era di Carto. Carlo Bonomi, che era doppiatore dotato di una voce caratteristica e utilizzata spesso nelle pubblicità degli anni 70 e 80. Immagino che. Scusa. Esatto. No, è così. E quindi per lanciare questo prodotto innovativo, se vogliamo, viene creato proprio il personaggio di Maria Rosa, che è una bambina abile nel risolvere tutte le situazioni. E da allora la Bertolini ha sempre utilizzato il logo di Maria Rosa, lo trovate ancora come oggi. È vero. Nelle confezioni. Questa è la cosa incredibile, poi, se ci pensi, perché comunque oramai sono passati 45 anni, sì. Cioè, Walter... E Maria Rosa è nota anche in altri paesi, tipo in Inghilterra, in Canada e in Australia, anche se non insomma con... Perché Maria Rosa secondo me dietro, è amico il barone del cucinino, Maria Rosa tra una torta e un'altra, col pistolone, e quindi c'era pure Carmencita, facevano un macello là dentro. Comunque a questo punto non possiamo che lanciare l'olandesina. Aspetta che adesso ci arriviamo, però volevo solo leggere, certo che chi non ha l'età e il background per ricordare questi caroselli, solo dall'audio secondo me non può nemmeno lontanamente immaginare, ed è vero, infatti quando eravamo futuro tendenzialmente è una sorta di spunto per l'osservazione, poi dopo sta comunque a chi si incuriosisce magari di andare poi successivamente a reperire i vari filmati su YouTube, perché comunque la maggior parte dei caroselli li troviamo su YouTube, insomma, grazie al cielo. E quindi andiamo sempre un'altra roba in polvere qua, no? Giusto? Ah, l'olandesina, la polverina bianca, sempre una polverina bianca. Qui la polverina e l'olandesina pure qui non è che si sposano bene, però andiamo. Signore e signori, l'olandesina. Corrado, grande. Tira l'olandesina. Eh sì, Miralanza ti è sempre vicina. Per esempio, per il bucato ti porta nuovo Ava. La gente si fida di Ava. E ci credo. Guarda che bucato bianco. Ma che dico bianco? Oh, questo... Abbaglia. E che magnifici regali con le figurine della grande raccolta. Ma pure sta cosa di che dico bianco abbaglia, che poi a Roma si diceva abbaglia, non si dice abbaglia. Insomma, beh, allora io qui ho scelto di mettere Corrado, però c'era anche Calimero. Eh sì, esatto, perché sto dicendo io. Ava come lava. Esatto. Ava come lava, è vero, bravo. Che poi tra l'altro Ava come lava. Sì, è vero, bravo, c'hai ragione, ma me lo ricordo. Però devo dire la verità, che io quando sento la voce di Corrado mi sempre un po' qualcosa al cuore proprio. Sì, sì, per me era come un parente, era come mio zio praticamente, cioè personaggi come Corrado in particolare, che hanno da grandi professionisti, hanno fatto la storia della televisione italiana, ma erano accoglienti, erano zio per tutti, insomma. Erano dei signori, lui, Vianello, dai, voglio dire. Poi, poi a me Corrado poi faceva proprio ammazzate di risa, cioè veramente c'aveva una comicità naturale, pur non essendo un comico poi, perché comunque... La corrida di Corrado ce la ricordiamo. A volte piangeva. Pranzo è servito. Sì, no, però la corrida, secondo me, lui ha dato il meglio, perché lì a volte piangeva dai risate pure lui. Cioè, nel senso... sì. Io non so chi l'aveva pubblicato, ma uno di voi, mi pare, sul canale su Telegram. Non mi ricordo cos'era, un telegatto o qualcosa. E c'era Corrado, Mike Buongiorno e Tipo Baudo. E facevano quelle battutine tutti e tre, mica male. L'unico sopravvissuto è Pippo Baudo, che era il più antipatico dei tre, però niente, mezzo mafioso. Esatto. Muoiono sempre i migliori. Sono sempre migliori quelli che se ne vanno, sì. Esatto. Comunque la Mira Lanza ha sempre fatto degli spot che hanno avuto successo, che sono belli, come questo che abbiamo sentito. Abbiamo parlato di Corrado, Calimero, abbiamo detto Ava come lava. E anche... era avanti nel marketing per gli anni, ad esempio attaccava delle figurine sugli involucri dei suoi prodotti che venivano collezionati, avevano anche dei valori in punti per avere degli sconti, però la gente in realtà in molti casi li collezionava. E l'olandesina appunto è un personaggio che era molto popolare sulla sua mongolfiera a forma di bolla di sapone, quindi sono cose anche, ripeto, poetiche, lontane anni luce. Sì, assolutamente. Come quello che possiamo vedere adesso, che parla di pannolini, direi. Che non lo vediamo, ma lo ascoltiamo, insomma. Forse nella parte musicale andrebbe descritto un po' quello che succedeva in questo spot, perché io non me lo ricordo bene. No, c'è però un pachiderma, un enorme pachiderma blu. Ah sì, ecco, bravo. Ecco Pippo. Pippo. All'audio fa schifissimo proprio, però. Sì, è Pippo. Pippo. Come buffo, Pippo. Però non so cosa. Pippo. Ragazzi. Il mio gatto si chiamava Pippo, infatti. Davvero Pippo. Se deve buttare, dove si deve buttare Pippo? Mannaggia. Il pannolino. Oggi fai una pubblicità con Pippo, è brutta la storia. Oggi sì. Lines, sì, era della Lines. Claudio sì. Chiede se era della Lines. Sì. Era i pannolini Lines. Tanto vedrai che lo dice. L'ippopotamo blu. Esatto. Era l'ippopotamo blu, bravo, non... Esatto. Sì. Bisogna pannolini Lines. Lines, la casa dei famosi super pannolini, presenta una piccola rivoluzionaria idea. Omogeneizzati Lines 7 giorni. Giusto. In ogni astuccio, 7 diversi vasetti e le indicazioni per nutrire il vostro bambino ogni giorno della settimana con l'omogeneizzato giusto. E attenzione, troverete gli omogeneizzati Lines 7 giorni in astuccio verde per bambini al quarto mese, giallo quinto sesto mese, azzurro settimo mese, rosa ottavo nono mese. Sì, ci sono 4 astucci di omogeneizzati Lines 7 giorni per le diverse età del bambino. anche in vasetti singoli omogeneizzati in linea. Diciamo che questi qua praticamente facevano, no, facevano i pannolini, la Lines, e dice: vabbè, dato che famo i pannolini, famo pure gli omogenizzati, magari li famo con lo stesso materiale. Una estensione di linea, cosa che non funziona mai nemmeno negli anni 70. Comunque, vai. Una grossa agenzia pubblicitaria che creò questo... la mascotte. La mascotte molto, molto spettacolare. Dentro Pippo c'erano due persone che dovevano muoverlo, quindi era anche abbastanza complesso. E addirittura fecero diversi tentativi. Il primo in un poliuretano espanso, che però venne fuori troppo pesante, quindi non riuscivano ad animarlo, tra virgolette. E poi sono riusciti a svuotarlo, insomma, a fare altre cose per creare questo Pippo. Per i più giovani che non l'hanno visto, quindi non possono ricordarlo, andatevelo a vedere perché è davvero divertente. Questo, siamo usciti un pochino anche dal semplice carosello e abbiamo visto un po' di questi spot molto fantasiosi e creativi. Vabbè, su Pippo, delle però, storie, delle prego, ma Carlo. Scusate. No, dicevo che su Pippo, vabbè, Pippo il nome deriva appunto da ippopotamo, Pippo, certo. Quindi è collegato. Ma c'è da ricordare che nel campo tanto caro anche a te del collezionismo, l'ippopotamo Pippo come giocattolo, quindi uscendo proprio dal seminato della pubblicità, ed era diventato una mascotte talmente famosa che era diventato un giocattolo vendutissimo. Ah, è vero, negli anni 70, nei bambini, ed è diventato anche nel mercato collezionistico un oggetto molto ricercato e di valore. Non so le ultime quotazioni, ma parecchie centinaia di euro, credo, un originale di ippopotamo Pippo dell'epoca. Quindi magari non in grandezza naturale, spero. No, erano più piccoli, però erano anche abbastanza grossi. Comunque era diventato addirittura un giocattolo. No, una cosa molto bella. Come spesso accadeva con tutte le Io penso che anche Carmen Sita e compagnia li vendevano, sì, anche giocattoli. Ce lo devo avere, tra l'altro, Carmen Sita, io in ceramica da qualche parte. Anche Linea. Beh, ok, la Linea, ok, ma la Linea è andata oltre la pubblicità. Assolutamente sì. E a questo punto io avevo messo, e poi vediamo altri spot anche insieme agli altri, perché sono in parte, ho ripreso quelli che poi aveva segnalato Davide, e vediamo anche qualcosa ovviamente di quello che ha segnalato Carlo, ma volevo mettere due versioni, più che altro di una canzone, che vi confesso a me da ragazzino emozionava. Mi è sempre piaciuta molto. Quindi ti chiederei, sì, Simone, di mettere prima quella in inglese. Ok, vado. Vai. To buy the world a home and furnish it with love. Grow apple trees and honeybees and snow white turtle doves. I like to teach the world to sing. Sing with me. Perfect harmony, perfect harmony. I like to buy the world a home and keep it company. That's the real thing. I like to teach the world to sing. Perfect harmony, perfect harmony. And I like to buy the world a coat and keep it company. It's the real thing. Qui quelle, anche quelle in italiano. Sono arrivati gli americani con l'emotional, no? Lo stile emotional che poi alla fine ha contraddistinto. Vi ricordate Marlboro Country anche? Tutte quelle Marlboro Country. E sì, vorrei cantare insieme a voi. Vorrei cantare insieme a voi in magica armonia. Auguri Coca-Cola e poi un coro in compagnia. Insieme a noi. Auguri Coca-Cola e poi un coro in compagnia. Cantate tutti insieme a noi. Allora, qui alcune curiosità. Innanzitutto, in Italia questa canzone rimaneggiata è arrivata molto dopo, perché quella iniziale è di Coca-Cola del 71, sì. In Italia l'abbiamo vista a fine anni 70 o inizio anni 80, adesso non ricordo. E In Italia l'abbiamo vista nell'83. Addirittura. Yeah. Quindi oltre 10 anni dopo. Inoltre, e dura la metà poi, tra l'altro, cioè nel senso la versione sì. italiana da quella americana. La versione diversa parla di auguri, quindi solitamente era legata al Natale in Italia, mentre quella americana esatto. non lo era. Poi se guardate lo spot iniziale americano, quella che è Hilltop, I'd like to buy the world, è girata in Italia. Questa è una cosa ma dai! Strana. Sì, è girata in Italia. E quindi questa è una cosa un po' particolare. E confesso che questa canzone da ragazzino a me emozionava, mi è sempre piaciuta molto e forse ha influito sul comunque un buon rapporto che ho sempre avuto con la Coca-Cola. Probabilmente dipende da questo, chi lo sa. Una cosa emozionale, perché come abbiamo detto, col tempo gli spot riescono anche a manipolare e quindi a manipolare i tuoi ricordi e inevitabilmente anche le tue sensazioni. Sì, diciamo che la Coca-Cola ci ha portato quel tipo di spot con quel tipo di coralità, emozionalità che in America comunque ha sempre funzionato, e da lì in poi l'ha sdoganata, no? Perché questo tipo di impatto che da noi c'era relativamente, anzi non c'era praticamente, e in realtà poi dopo insomma è stato un'escalation, a volte nel bene ma non sempre nel bene. Diceva Walter che lui ha diverse Carmen Sita a casa. Io non le ho mai viste, devo dire la verità, cioè dal vivo. So che esistevano, però non le ho mai viste. Insomma, vabbè, è curiosa sta cosa. Sì. Però dai, comunque lo spot da Coca-Cola rende, insomma. Senti, io passerei la palla al buon Davide con L'uomo in ammollo. Mitico. Ok, allora la prima la sentiamo. Va. Sporco impossibile. Unto di cucina, sporco sulla federa, unto di pelle qui sulla camicia. Ma l'unto è impossibile! No, non esiste sporco impossibile sporco per Biopresto bucato a mano. Biopresto bucato a mano liquida anche l'unto, perché Biopresto scioglie lo sporco impossibile che di solito non viene via. Visto che è pulito, e per Biopresto bucato a mano niente più sporco impossibile né su asciugatoi da cucina, né sulle camicie, né sulle federe. Biopresto bucato a mano liquida lo sporco impossibile su tutto il vostro... Così, finisce così. Basta. No, non esiste sporco impossibile. Ce l'ha trattato. Diciamo questo era uno sport che quando uscì, che vedevi quest'uomo infilato nell'acqua così, faceva anche un effetto attrattivo notevole. Cioè, quando lo guardavi rimanevi sempre lì. Ha fatto un grande effetto, secondo me, questa. Beh, ma soprattutto perché lui, il personaggio, l'uomo a mollo, a parte che era figo visivamente. Se voi vi ricordate, cioè lui che stava a mezzo busto, con chissà poi, cioè anche dal punto di vista tecnico, no? Realizzare sta cosa, quindi sicuramente c'era un vetro, qualcosa insomma che. Acquarione. Sì, insomma, qualcosa di insomma, studiato appositamente, che anche fotograficamente comunque. E poi lui era anche quello, era tipo uno di casa praticamente, insomma. Come la signora della pubblicità da Dixan, quella c'aveva 7 figli, no? Ma ricordate, no? Sì, sì, sì. Che pure quella era una di casa praticamente, sì. Insomma. Ci possiamo ricollegare, anche se non abbiamo l'asset, a una pubblicità simile, che è quella dei famosi due fustini al posto di uno. Sì. Cambierebbe due fustini per anomi per questo. No, io Dash, no. Però sai, quella è stata molto riproposta negli anni, anche recentemente. Beh, anche l'uomo in ammollo è durato tipo 20 anni, quella pubblicità. Sì, penso di sì. Allora, sì, è bellissima. Allora, facciamo una cosa. Io anche quella no. Mi gioco tutti gli asset che ho ancora a disposizione, poi vado sul documento e vedere magari quello che riusciamo a tirare fuori dalla roba di Carlo. Io partirei con uno spot del 1979 che è una merendina, insomma, una di quelle merendine che noi abbiamo mangiato tanto nella nostra infanzia e siamo sopravvissuti. Questa è la cosa più incredibile, cioè non è incredibile il fatto di averla mangiata, ma quanto al fatto che ne siamo sopravvissuti, perché io penso che di isotopi radioattivi ne abbiamo mangiati noi nella nostra vita, insomma. Sicuro. Quanto è che studiare studio io e giocare gioco io, buon di motta. Oddio mio! Scusa sai, ma l'atleta chi lo fa? A colazione, a scuola, merenda, me lo merito io. Buondì Motta. Buondì Motta. Ecco, qui come dicevamo con Roberto, nel 1979 la transizione c'è già stata, quindi non esiste più il carosello, non esiste più il cortometraggio, esiste lo spot che a volte era di un minuto, a volte di 30 secondi, a volte come in questo caso ad esempio è uno spot di 28 secondi, quindi cioè, siamo già entrati in quella che è l'era moderna poi da questo punto di vista, insomma. Sì. E il buon anche se il me lo merito io rimane comunque uno di quelle cose che sono i tormentoni che dicevamo merito prima, io sì buon del nuoto, buon di mio, insomma. Tra l'altro, per esempio, c'è lo spot questo è proprio, non so se il file è così, però addirittura 6 secondi dura sta cosa. Bevete Cinar, l'aperitivo a base di carciofo contro il logorio della vita moderna. Cinar. Questo era tipo proprio un micro spot, insomma, però è... L'ho fatto apposta a prendere quello ridotto, in realtà che l'ho rifatto Elio, se vi capita guardate. Sì, l'ha rifatto. Praticamente c'è questo tizio che legge il giornale mentre si beve il cinare in mezzo a una strada trafficatissima. Sì, come si chiama? Ernesto Calindri, giusto? Non sbaglio. Sì, ok. No, anche lui, personaggione che noi, cioè per noi era l'uomo del Cinar, cioè nel senso anche quelle sono persone, personaggi che facevano parte del tuo vissuto, poi anche se non li conoscevi, no, però stavano lì e sì lui era forte che sapeva sto cucinare. Il logorio della vita moderna, immagina che logorio, insomma. Mi raccomando, non dimentichiamoci il pennello cinghiale. Ma cinghiale però, la prossima puntata, il pennello cinghiale è la prossima puntata, non la prossima, ma la prossima puntata che faremo la seconda parte di questo episodio. Abbiamo deciso di dividere in due perché anni 70 e anni 80 ci sono delle differenze molto marcate, insomma. Quindi alla fine, gli anni 80 già sarà complesso farlo in una, ma vedremo. Allora, invece Walter dice: però me lo merito io, penso a Francesco Salvi, perché sei giovane, certo. Anni dopo, sì, Francesco Salvi faceva la presa in giro del me lo merito io, ispirandosi proprio alla pubblicità del buon di Motta, alla pubblicità lui diceva, me lo merito io. Era l'amaro dell'uomo inutile, se mi sfugge il nome. Sì, l'amaro qualunque. Comunque faceva tutta una serie di pubblicità. È stato anche Salvini, me lo merito io. Quella è un'altra cosa, lasciamo. Esatto. Non me lo merito io. Allora, è una buona cioccolata, cosa ne pensi per la colazione? Allora io però vi racconto un aneddoto su questa cosa, però ve lo faccio sentire prima. Se parte, ovviamente, perché potrebbe pure... Io so che il latte gli fa bene, perché contiene calcio, fosforo, vitamine. Però so anche che lui non lo beve volentieri. Ma se c'è... 1, 2, 3, sì, ci basta 1, 2, 3, il latte piace anche a noi. 2 cucchiaini di Nesquik e una bella mescolata danno ai tuoi ragazzi un latte da leccarsi i baffi. 1, 2, 3, il sapore del cioccolato rende il latte prelibato. Nesquik. 1, 2, 3, al mattino caldo in tazza nel bicchiere quando vuoi. Eh sì, Nesquik col sapore di cioccolato fa bere più latte ai ragazzi e più volentieri. 1, 2, 3, col sapore del cioccolato rende il latte prelibato. Nesquik col sapore di cioccolato rende il latte prelibato. Nesquik, Nestlé. Allora, questa qua è una pubblicità che dura praticamente un minuto, quindi vedete che ancora non siamo proprio nei tempi iper frenetici, però sul Nesquik mi dovete permettere un minuto, cioè neanche, forse anche 30 secondi, però un minuto me lo prendo, perché il Nesquik, la pubblicità è bellissima, perché lei dice il latte fa bene, c'è il calcio, però a lui non ci piace, quindi mettici un po' di veleno dentro, che è così... Esatto. Mettici un po' di cose che gli faranno venire il diabete a 10 anni, però va bene, era buonissimo il Nesquik, era buonissimo, ragazzi, il Nesquik era buonissimo, io non lo so, a cucchiaiate in bocca era buono. Esatto. Allora sapete che io non ho mai usato, non ho mai osato prendere il cucchiaiate, perché dico, no, cioè, mi sembra troppo. Un giorno l'ho fatto ed è stata la fine, cioè è stata la fine. Sì, è una roba artificiale, si capisce, ma vorrei far notare una cosa. Quante volte ha detto Nesquik e quante volte ha ripetuto col sapore di cioccolato rende il latte prelibato? Cominciano i refrain, o come le avevi chiamati prima? Sì, tormentoni. Sì. Tormentoni, che in un solo minuto l'avrà detto 20 volte, che è l'opposto di quello che abbiamo sentito prima col carosello. Quindi si nota nettamente, hai ragione sulla durata, perché costavano ancora poco gli spot, questo è il motivo perché erano così lunghi. E, ma anche i tempi della televisione ancora non erano proprio iper accelerati come adesso, insomma. Esatto, però cominciano a martellare. Noi noteremo adesso, quando faremo la seconda parte negli anni 80, questa grandissima differenza. Però col sapore di cioccolato rende il latte prelibato. Io mi ricordo, per esempio, lei dice: nella tazza di latte ci metti due cucchiai di Nesquik e diventa buono. Io mi ricordo una volta, cioè io, raga, allora io devo dire la verità, cioè nel senso, ero malato del Nesquik, io prendevo sta tazza di latte, la riscaldavo al microonde, ci mettevo tre cucchiai grossi, no, cucchiai di Nesquik, quindi diventava molto scuro il latte, no? E ci mettevo anche due cucchiaini di zucchero io dentro, quindi cioè voi immaginate che cazzo poteva essere, cioè nel senso stradolce, e ci intingevo dentro i famosi cornetti cerbiatto che a Roma andavano. Simone, no, non eri l'unico, perché anch'io mettevo 60 cucchiaini di Nesquik e lo zucchero. E lo zucchero. Allora, e poi ci mettevo dentro le fette biscottate che le tiravo su, diventavano marroni. Mamma mia, bellissimo, bravo, che ricordo. Però pure il pane. Il cerbiatto, il cornetto appena fatto. Fatto che negli anni, poi dopo, quando faremo la puntata degli anni 80, io ve la schiaffo quella pubblicità, perché era meraviglioso, perché è andata per anni, no? Tutti quanti a scuola facevamo tutti il gesto cerbiatto il cornetto appena fatto, capito? Cioè nel senso che cose così, che poi insomma, e una volta sono andato a casa di un mio amico, sono andato a dormire lì la mattina a colazione, e la mamma prepara sta tazza di latte, dice: ti piace il Nesquik? Sì, come non mi piace il Nesquik? E ci mette mezzo cucchiaio dentro il Nesquik, cioè nel senso, era una cosa pallidissima. Io ho visto sbiancato, ho detto: che cos'è, non ti piace? Sì, però lo sai, io ce ne metto un po' di più. E alla fine ce l'ha messo un cucchiaio, quindi un cucchiaio e mezzo, diciamo così, no? E era una buona colazione, cioè io non c'avevo il coraggio di dire che ne volevo un altri due dei cucchiai, però insomma mi sembrava veramente brutto. E poi io faccio: ma posso avere un po' di zucchero? Lo zucchero, ma è dolcissimo. E vabbè, io ero abituato così, insomma, ragazzi. Poi, ma comunque il Nesquik l'abbiamo, almeno io mi ricordo che tutti mangiavano, bevevano il latte col Nesquik negli anni 70, era tutti. Che poi c'è stata anche l'Ovo Maltina. Io venivo dall'Ovo Maltine prima, e poi sono passato al Nesquik, che era buono pure l'Ovo Maltina, cioè nel senso. Poi c'era lo sciatore Tony, lo sciatore italiano, che faceva già Ovo Maltina da Fursa, diceva. E c'era il caffè Ecco invece per quello. No, ma io stavo per fare una domanda. Prego, prego. Cioè, come mai è scomparso il Nesquik? Non è scomparso. Che dici? Ma perché è scomparso, nel senso che non è più così popolare come era negli anni 70. Vabbè, perché sono cambiate le abitudini. Non so neanche come fanno colazione adesso i ragazzini. Però io dico, fino a che c'era Matteo Piccolo, noi intanto il Nesquik lo compravamo. Più per noi. Se che io per lo lui. Compro, il Nesquik finisce in. Sì, come adesso c'è pure il Nesquik alla fragola. Prima o poi assaggerò, naturalmente. No, dai, no, lo devo assaggiare. La fragola è come la Coca-Cola alla ciliegia. Alla ciliegia, sono d'accordo. C'è un sito che si chiama. Io non riuscirei più a mangiarlo, mi sa di roba chimica adesso. Ma è roba chimica, però devo dire un po' la curiosità. No, io ogni tanto l'Ovo Maltine me lo so ricomprato, e se mi capita, non mi capita. Però forse una volta ogni 2-3 anni una botta di Nesquik tocca taglierlo, insomma, perché è una cosa che fa bene all'anima, capisci? Insomma, sentiamoci un attimo questa, che non c'entra niente con Nesquik, che comunque ci ha portato bei ricordi. Mobili Aiazzone Ciella, perché saprà tutta la qualità. Con Aiazzone avrai legni pregiati e grandi architetti che non hai trovato mai. Con Aiazzone avrai mobili belli per la tua serenità, mobili pratici. Con Aiazzone avrai prezzi imbattibili che solo lui ti dà, perché Aiazzone è il massimo. Aiazzone, consulenze per pagamenti fino a 8 anni senza cambiali. Aiazzone consegna gratis in tutta Italia, isole comprese. Eccoci qua. Siamo già negli anni 80. Questi anni 70, negli anni 80, sì, anni 80 diventa provare per credere. Provare per Guido credere. Angeli. Sì, Guido Angeli. Che dopo, negli anni 80. E di questo ne parleremo. Tra l'altro Iazzone ha una storia molto particolare che non tutti conoscono. Era una specie di mini Ikea italiano che poi scomparirà per la tragica scomparsa di del patron. Magari diremo anche qualche parola. Guarda, io ti devo dire che in Italia c'erano diversi casi simili, perché da noi c'era il mobilificio del nonno Ugo, no? Il mobilificio Rossetti, ma c'era anche CEM, se voi vi ricordate. C'erano che però era sull'abbigliamento. C'erano queste catene nate in Italia che facevano, che erano una sorta di prototipo di quello che poi è venuto dopo, appunto, come dici te, magari con Primark, per esempio, la Legler. Però è così. Ce n'erano diverse. Iazzone ebbe un'esplosione incredibile con le TV commerciali, ovviamente. Prima nel Nord Italia, poi in tutta Italia, vi ricordate? Tutta Italia, isole comprese, provare per credere, Guido Angeli. Esatto. Venite da noi e vi offriamo da mangiare, tutte cose vere, tra l'altro. Ebbe un'esplosione. Si facevano le gite proprio, io mi ricordo questa cosa. Non riusciva a stargli dietro, non riusciva a comprare mobili e stava per aprire in Francia e da altre parti. Poi ebbe un incidente aereo anche lui, questa è una costante italiana e scomparirà. Comunque era in una espansione fortissima, comprò addirittura una televisione per fare da sé tutti gli spot e tutto quello che voleva fare. Poi fu copiato male da una serie di altre case, perché tutti quelli che sono venuti dopo hanno copiato male Iazzone e Guido Angeli. Questa è la verità, ma magari ne parleremo, una storia interessante. Yes. Sì, ci sono diverse. Qui siamo negli anni 70. Ci sono diverse storie, appunto, come dicevamo, che poi sono legate a questo tipo di imprenditoria, che erano molto settorizzati in un paese, come dicevamo, che a Milano non sapevi quello che facevano a Roma, e a Roma non sapevi quello che facevano, che ne so, a Firenze, ad esempio, insomma. Quindi ecco, cioè, nel senso, esperimenti simili. Noi abbiamo già fatto una puntata sul mobilificio Rossetti, proprio perché lui costruì questa sua, mentre che la questione Biella, secondo me, era più intelligente. C'era una questione delle gite, tu andavi lì, partivi col pullman, passavi, magari lo facevano le persone anziane, no? Che magari, ma la stessa cosa mi pare che pure quelli delle pellicce lo facevano, sta cosa, se non mi sbaglio. Sì, Annabella, se non mi ricordo. Quindi c'era questa cosa che era fighissima, perché comunque la gente mangiava un po' a sbafo, insomma, anche e si facevano la gitarella. Però per esempio, invece, il discorso del mobilificio Rossetti a Roma è stato diverso, perché lui ha puntato tutto sulla televisione e ha utilizzato la televisione privata nascente in quell'epoca in un modo in cui probabilmente, almeno nel centro Italia, nessuno aveva mai fatto, utilizzando anche asset umani abbastanza particolari, tipo Moana Pozzi, che già ne abbiamo parlato, appunto, oppure Lori del Santo, personaggio, faceva il concorso La donna più bella del mondo, che poi mischiava bambini con adulti, perché faceva il gioco dei bambini che regalava faceva tutta una serie di attività collaterali, che alla fine del mobilificio restava poco, se non il fatto che attirava tantissima gente che alla fine comunque dentro al mobilificio ci andava, cioè, nel senso, quindi comunque in qualche maniera ha funzionato. Comunque vedo che c'è uno spot molto carino, io questo me lo ricordo, menta fredda, che vogliamo dire, Carlo, ci diamo un'introduzione? Allora, stai andando sui miei, giusto? Sì. Quelli dopo, certo. Sì, perché ho finito gli assets. Allora, sì, ok. No, la premessa che faccio è che questi due spot che ho indicato non sono tanto ricordati per il refrain o per la musica, eccetera, ma più per la parte visiva. E più che altro questo di Menta Fredda Caremoli, che magari nessuno si ricorda più il prodotto, cioè Menta Fredda Caremoli, veramente non te lo ricordi praticamente proprio, le caramelle alla menta, ma ti ricordi invece, tutti noi ci ricordiamo che cosa è nato da questa pubblicità, si riesce a sentire dalla... Sì, che poi io è un personaggio che ho amato tantissimo, dopo. Quindi... Tutti noi poi abbiamo amato tantissimo. Sì. Vediamo se... Un mondo popolato da draghi. Beh, ci credereste? Ce n'è ancora uno. Un piccolo drago, buono e servizievole, che vive in casa di un ricco signore. E come tutti i draghi, quando è contento o quando lo fanno arrabbiare, getta fiamme dalla bocca. Avevo distrutto le orecchie di tutti oggi. Questo è tosto, questo sì. Dall'audio è terribile. Essere il cane della villa. Mai visto un cane di questa razza? Però non mi sembra cattivo. Andiamo avanti. Hai dato l'ho linkato in chat. Non so quanto duri. Comunque no, non dura tanto. Non dura tanto. Ancora 50 secondi. Un fratellino. Madonna, sì, comunque è terribile. È terribile, terribile. Vabbè, vai. Comunque dicevo, è Grisù, il draghetto che poi diventò un cartone animato completamente indipendente, cioè non più legato al prodotto, alla pubblicità, così come era successo per Linea, che abbiamo citato prima, per la linea di Cavandoli. E Grisù però diventa un draghetto che poi tutti noi ci ricordiamo che era un drago che però voleva fare da grande pompiere, da grande farò il pompiere. Ed è nato anche lui, come tantissimi cartoni animati e personaggi dell'Italia, Calimero, la linea, Grisù, nacquero tutti nel carosello, cioè legati a prodotti pubblicitari, poi diventando talmente famosi da diventare delle serie di cartoni a parte. Che poi Grisù voleva fare il pompiere per la disperazione del padre, chiaramente. Sì. Che invece era. Esatto. Cioè, qui per esempio in questa pubblicità si parla solo di lui, non si parla del padre, invece in realtà poi alla fine c'era. Sì, sì, poi c'è tutta l'evoluzione del personaggio fino a diventare famoso per il fatto che voleva diventare pompiere al contrario di quello che il padre voleva. L'altro invece che ho messo perché quello invece l'altro spot praticamente è stato dimenticato quasi, ma negli anni 70 era uno spot che riscosse un notevole successo, facendo diventare quel marchio pubblicizzato uno dei marchi tecnologici più importanti in Italia negli anni 70, e in gran parte fu dovuto a questa trovata pubblicitaria, che era la trovata pubblicitaria del pianeta Papalla con i suoi personaggi. E il marchio era la Filco. La Filco, che non esiste più, credo, ormai la Filco. Non credo. Attenzione, attenzione! Il nostro astromicrofono si è posato sul pianeta Papalla, distante dalla Terra 100.000 anni luce. L'eccezionale servizio in astrovisione è offerto dalla Filco Italiana. Qui Papalla, il pianeta del futuro. A Papalla il progresso e la scienza sono avanti di 2.000 anni rispetto alla Terra. Gran festa oggi a Papalla. I papallesi sono gente allegra. Ogni pretesto è buono per cantare e ballare. Scusi, sono un microfono terrestre. Permette una domanda. Cosa festeggiate oggi? Oh, festeggiamo la mietitura degli spacchetti. Fenga, fenga, fetere! La tutti filari di maccheroni che crescono di 2 centimetri al secondo. Ta ta ta. Questi spaghetti che sbucano fuori. Vabbè, comunque era una cosa da notare, l'accento tedesco, sì. Perché per noi italiani, ma anche per gran parte del mondo, la Germania era il paese con la tecnologia più avanzata. Questo era un retaggio ancora derivato dalla Seconda Guerra Mondiale, quindi da quando praticamente la tecnologia tedesca era quella più avanti, che poi in Europa, soprattutto in quegli anni, noi lo subivamo anche nei marchi, ve lo ricordate, la Telefunken, no? Noi siamo scienza, non fantascienza, poi tutti i prodotti tecnologici se arrivavano dalla Germania funzionavano benissimo, quindi c'è questo discorso. Che della poi era anche vero, se devo dire la verità. Comunque, beh, noi c'eravamo la Telecom, le televisioni da Telecom. Noi eravamo avantissimi anche noi. Tantissimi eravamo. Però era un po' nella, diciamo, del sentore, no? Fatto di accento tedesco uguale tecnologia, quindi pianeta Papalla, futuro, tecnologia. accento tedesco, era tutto collegato. Orologio svizzero funziona meglio di qualsiasi altro orologio. Mi sembra anche giusto, certo. Vabbè. Comunque questo a me da piccolo piaceva tantissimo, soprattutto gli abitanti che erano delle palle che erano, sembravano delle che erano dei due televisori al posto degli occhi, cose un po' strani. Ve li ricordate voi gli abitanti? Sì, sì, palla, eh. Diciamo non è uno di quelli che mi è rimasto impresso e che no, è durato è durato poco. Mi è ritornato a mente riguardandolo, devo dire la verità. Esatto. Nel senso, però non sì, so neanche... Ce ne sono tanti altri che ci siamo dimenticati, tipo Joe Condor. Che ci ho scritto Joe Condor, ve lo sì. ricordate? Cioè, la mia professoressa lo diceva sempre. Io ho un elenco adesso di cui non abbiamo gli asset, ma che ci ricordiamo tutti il tormentone. Sì. Permaflex, Beady Body, piuttosto che gli olive sacla, olivo lì, olivo là, tutte queste robe qua, se c'è la goccia gin di gorgonzola, del gorgonzola, cos'è che abbiamo poi, vabbè, la gomma del ponte, Brooklyn. E la caramella che ti piace tanto che fa du du du du du du du du du fur. E Bialetti, l'omino coi baffi, che se ve lo ricordate anche lui era un cono, sì, che sì. La bocca, quando parlava, venivano scritte le lettere delle cose che diceva, si diceva sì. Ciao, veniva C-I-A-O, no? Esatto. Ah sì, è vero. L'omino della Bialetti è ancora il marchio della Bialetti ancora oggi. Sì, se esatto. Tu compri la caffettiera Bialetti c'è sopra l'omino della Bialetti, quell'omino lì con i baffi. Sì, quello resiste. E poi Colgate però mi sa che era già anni 80, quello di ti spunta un fiore in bocca, che veniva un pochino ti spunta un fiore in bocca. Che veniva però modificata da sempre ti spunta qualcos'altro in bocca, a dipendenza dell'esigenza. Tra l'altro c'erano quei due spot del fiore che ti spuntava in bocca e le mele sui capelli, se non ricordate. Sì, lo shampoo Campus, la mela verde, quindi tutta c'era sta tizia con tutte mele verdi. Cioè io immagino poi, qua poi la crista gli hanno dovuto appiccicare. Ma ragazzi, troppi ce n'erano. Non ci dimentichiamo Fiesta di 33 volte tanto. Perché sulla shampoo, ve lo ricordate la pubblicità dello shampoo antiforfora dell'inglese che diceva what? No, ma quella è più recente. Anni 80. Sì, what's forfora? C'era Leuchettina. Fiesta. E cos'era quell'altro amaro che lo fa bene ai giovani e ai bambini? Se mi sfugge, che è un lassativo. Beh, per esempio, al tempo del carosello, la dolce Uchessina. Al tempo del carosello c'era il famoso whisky maschio senza raschio. Là, whisky maschio con il fischio. Era Roma quello, però, secondo me. No, c'era. No, gli devo dare una brutta notizia a Simone, almeno per me, no? Forse mi potrei sbagliare, ma secondo me, almeno per quello che ne so io, quelle del brioche che hai citato prima c'erano solo a Roma. Sì. No, ma l'avevo detto. Cerbiatto e il cornetto appena fatto. No, ho detto, infatti, si parlava di queste realtà. Vi infilerò nella prossima puntata lo spot, perché merita di essere citato. Perché a parte che erano buonissimi, chimicissimi, ma erano buonissimi. Tu prendevi veramente questa busta, ma ci stanno ancora. Non, è un'altra sottomarca, ma li fanno secondo me nello stesso modo. Erano questi cornetti che erano anche leggermente glassati, molto morbidi. Tu li mettevi praticamente, li spaccavi, ci mettevi la Nutella dentro, li mettevi tre secondi, no? Prima 3 secondi nel microonde, 3 secondi. Non c'era bisogno, però se li mettevi quelli 3 secondi nel microonde, che usciva quella specie di calorino, gli dava un ulteriore sapore che usciva fuori in più, e più lo intignevi nel Nesquik con altri tre cucchiaini di zucchero. Il merendero, sì. Quello era il merendero era della Girella Motta, no? No, Kinder merendero, no? È il merendero proprio, sì. Il merendero. Ci dice Carlo sì. Claudio, scusa, no Carlo. Claudio ci dice, fa qui basta la parola, ma io ricordo pasta del capitano. Anche il dentifricio. Poi, io, io volevo ricordare questa che però tutti voi non ve la ricordate, quella di Gino Bramieri del Moplen. Nessuno che Moplen. Moplen. Sì, sì, quella io me la ricordo, ma perché l'ho rivista più avanti. Sì, non di recente, ma un po' di anni fa, quando cercavo notizie su questo Moplen. Cos'era sto Moplen? Quindi l'ho rivisto. È stata un'invenzione italiana da Nobel. Sì, sì, sì, sì, sì. Polipropilene. Ah, mi è venuto in mente che l'ho cercata perché ero andato a visitare un palazzo storico che c'è a Milano, la sede della Mondadori, quella che c'è sopraelevata sull'acqua, che c'è lì, non so se l'avete mai vista, è un palazzo famosissimo dal punto di vista architetturale, e l'interno, i pavimenti, i tavoli eccetera sono tutti in Moplen, perché era costruito in quei tempi là, quindi questo materiale eterno, però mi sa abbastanza, con qualche altro problema probabilmente, visto giustamente che Walter in chat mi ricorda che ne parlammo già in Runtime by Night, lo spot originale di Cerbiatto, il cornetto appena fatto, non è... Infatti mi ricordo che lo cercammo allora e lo cercai anche recentemente, pare che sia praticamente introvabile, cioè nel senso lo spot originale, quello, poi dopo ci sono gli spot più moderni, ma insomma non so la stessa cosa, però c'era sta canzone, proprio lo sto slogan che era Cerbiatto il cornetto appena fatto. E capirai insomma che botica fa insomma. Però, di pubblicità locali milanesi io mi ricordo quelli della vecchia Filanda, ve le ricordate la vecchia Filanda? Mi dice qualcosa? Sì mi ricordo qualcosa, ma al momento quello del mobilificio che spaccava i mobili, che diceva questo non è della vecchia Filanda, distruggeva il mobile, diceva, vabbè, ebbe un discreto successo all'epoca quel personaggio, tanto ricordo Grappeggia, sì, vabbè, ce n'erano tanti dei mobili che sono stati chi lo diceva prima, quei tentativi di copia di Gaiazzone. C'era Grappeggia, ce n'erano tanti altri, non mi vengono i nomi, però ce n'erano. Alcune canzoni erano belle. Happening, cos'era? Compra Happening, cos'era? Te ricordi? Ma c'erano tante canzoni. Cos'è che fa andare la Filanda? Ci dice giustamente. Ah, giusto. Walter, ma sai, me lo ricordo anch'io, quindi evidentemente non era solo tanto lombarda sta cosa, insomma. Però c'era, io mi ricordo anche 33 vetrine 33. Sì. Vabbè, finito. Ragazzi, troppi ce ne sarebbero. Sì. Ma il Buongiorno con Grappa Bocchino, sempre più in alto, era anni 80. Sempre più in alto. Però mi sa che era già anni 80. È quello con cui io ho iniziato la trasmissione. Sì, anche però esatto, Carolina. La Buca Carolina, è vero, formaggini mio, con la tizia, come si chiama la bambina che si lecca le dita, porca miseria, Susanna. Esatto. Poi c'è il Brut 33 Fabergé. C'era il formaggino mio, era quello di Susanna, formaggino mio. Cioè, ce n'è tantissimi, cioè... che io da piccolo mangiavo la minestrina dentro il formaggino che si metteva dentro, si scioglie dopo la vetta del Cervino, dopo il massiccio del Rosa, la Grappa Bocchino va ancora più in alto, fino ai 4810 metri del Monte Bianco. La Grappa Bocchino la trovi sempre più in alto. Etichetta nera, Grappa Bocchino, sigillo nero. Ma non si vergognavano, cioè non gli veniva in mente il fatto che poi, tra l'altro, questo è spot 1980, quindi siamo proprio al limite, insomma. Però vabbè, mi piaceva ricordarlo, dai, era una cosa che andava ricordata, Grappa Bocchino, Sambuca Mulinaria anche, lo ricordate. Vai sottilette, no, Susanna era una roba della Kraft, quindi vai sottilette. Quindi era qui di formaggio chimico. Eh sì, no, il formaggino mio non era Susanna, c'hai ragione, erano due cose diverse, io li ho uniti nella ma mia ma c'era mente, un altro personaggio femminile che era legato a un dolcetto, però non mi ricordo, forse la Girella, può essere, c'era un la Girella, c'era l'indiano, il golosastro e la tribù degli indiani che... Ma siamo già anni 80, secondo sì, me. Sì, sì, sì, anni 80. Quella sì. Della fornarina lì, qual era quella là che c'era lei che andava dal mugliaio, da lì al mulino? Sporca puttana, vabbè, dai. Vabbè, comunque è un po' complicato riuscire a ricordarsi di tutti, sì. Che ce ne sta veramente di roba. Ma no, se abbiamo ricordato i più evocativi, insomma, però ce ne sono poi tanti altri. Ma... Ve lo ricordate, il Biele Ambrosoli? Metta certo. Dolce cara mammina. Sì, sì, io sì, ancora sì, lo compro il miele Ambrosoli, figurati. Sì, ma la, ti ricordi la canzone bella dolce cara mammina? Madonna, la, no. La, la. No, questo non me la ricordo. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, io me la ricordo bene. Formaggio Vio invece ex Locatelli, ora Nestlé. Ma Ercolino sempre in piedi, non, questo non muori, cioè. Clementina, sì, sì, Clementina, ecco qual era. Vedi Mulino Bianco, Clementina, vedi. Vabbè, ragazzi, piano piano te li vengono in mente, insomma, le cose. Ce n'è, bravo. Ce n'è decine, dici Antonetto, la Cedrata Tassoni, cioè. Sì, sì, giusto. Sì. Poi vedete, anche quello del Mulino Bianco è arrivata la foto. Sì, nella... sì, no, no, ma io me la ricordavo. Infatti, a me basta che mi ha detto Clementina, già me la ricordavo. Che poi era la maiala, se vede proprio, c'era la faccia da maiala questa. Vabbè, ragazzi, è incredibile. Il segreto di Goldrake è Ovo Maltina. Guardate, io Ovo Maltina, se mi capita ogni tanto una botta, gli ado, perché... Ma sai che ci sono gli snack, quelli croccantini ricoperti di cioccolato Ovo Maltina, che sono, beh, buoni, si trovano ancora, sono come, sì, sono degli snack. Che poi tu te bevi una tazza di latte con un paio di cucchiai d'Ovo Maltina e devi andare a prendere cazzotti qualcuno, perché quando eri ragazzino bruciavi energia, oggi che ne bruci di meno te cominciano a venire le braccia che devi menare a qualcuno. No, te cresce la panza, te cresce. Vabbè, quello c'è, quello è già cresciuta, quindi insomma te trasforma in panza, ha fatto il suo dovere. Vabbè, basta, abbiamo capito, Carlo. No, non sono stato io, No, chissà chi è che. E vabbò, ragazzi, dai, bella puntata, grande idea, caro Roberto Tomaiuolos. Io metto una musica che non c'entra niente, non so, ho messo una cosa così. Beh, che te frega. Ma no, ma cos'è sta cosa triste? No, ho sbagliato, scusa. Volevo mettere una musica anni 70-80, insomma, giusto per chiudere un po' la nostra puntata, ma non lo farò perché non ce l'ho e quindi adesso non mi sono preparato. L'altra volta ero preparato, c'avevo cioè una bellissima musichina anni 70-80. Chi è che vuole fare la puntata, la prossima puntata? A chi tocca? Dovrebbe toccare a Davide a sto punto, se non erro. Sì. Ma sì, comunque questa cosa degli anni 80, più che tocca Davide, tocca no, ce la tocchiamo tutti, perché insomma è una roba che... Cosa? Non ho capito. Se andiamo avanti su questo filone... No, andiamo avanti su questo filone. La prossima settimana, cioè la prossima puntata, tocca a te. Il tema lo devi scegliere tu, e lo sai tu, insomma, quello che è. Sì, insomma. Adesso lo sceglieremo. In questo momento non ho... No. Non ero preparato, però. No, ma non devi essere preparato per forza adesso. L'importante è che poi te lo ricordi e che ci facciamo la puntata. E qualcosa si presentiamo. Va bene, sì, sì. Okay. Bene. E io ce l'ho un'idea per la mia prossima puntata. Però mi sa che a me tocca fra due o tre puntate. Insomma, perché insomma, in teoria ci sarebbe Davide, ci sarebbe Carlo. Roberto l'ha fatto. Quindi fra tre puntate toccherebbe a me. Perché sempre se non ci mettiamo un ospite di mezzo. Sempre se non ci mettiamo un ospite di mezzo, è vero. Ma noi possiamo anche sballare, cioè se Davide fa fatica che non c'ha argomenti, ma perché in questo momento abbiamo... già l'ultimo episodio della serie sigle che era già pronto per la prossima. Ok, volta. Vabbè, però diversifichiamo. C'era già il documento. Comunque abbiamo un ospitona su un argomento che è lì calda, pronta, Adesso se Claudia sa che tu hai detto che lei è calda e pronta, forse si incazza anche un pochetto, però non lo so, dipende, insomma, cioè, è stato appositamente, l'ho detto in modo appositamente sì, per stare sul tema dei doppi sensi nelle pubblicità, insomma. No, basta doppi sensi, che oggi mi viene in mente vagina. Signor vagina. E allora ragazzi, noi ce ne andiamo a casa perché è il momento di chiudere questa bellissima puntata che mi è piaciuta molto. Ci ritorneremo ovviamente sugli spot andando nella seconda o terza parte, anche perché gli anni 80 si diversificano, ci saranno veramente tantissime cose da aggiungere, tantissime cose da ascoltare e sicuramente tante storie da raccontare, perché lì il mondo va verso un'altra direzione, si ramifica molto di più, diciamo, le localizzazioni, per poi dopo ritornare insomma in una versione pre-globalizzazione. Quindi insomma, ci saranno veramente tantissime cose da raccontare, sarà veramente bello. Per quanto riguarda invece Runtime, io vi ricordo che domani mattina la puntata del Mattino Loro in Podcast dalle 7 alle 8 andrà in onda dalle 9 alle 10, non so per quale ragione, però insomma questo è Leo Varghion ha chiesto insomma di poter spostare di un paio d'ore, forse magari domani mattina dopo tanto tempo si vuole fare una dormita ed è anche insomma doveroso il fatto che lo faccia. Invece vi ricordo che sabato dalle ore 8 e mezza dalle ore 8 e 30 alle 9 e 30 sempre di mattina ci saremo io e Michela con Disordinati Informati, versione del sabato, e la domenica ci sarà tutto il meglio di Runtime tra podcast usciti nei feed e live che sono state fatte durante la settimana, tutto in un purpurri unico insomma dalle 9 e mezza fino alle 23 e 30 di sera. E... No, ti correggo. Prego. Ah, sì, ci arriviamo. Domenica sera c'è la hai ragione, è vero. No, quindi non fino alle 23.30, ma fino alle 20.30, perché domenica sera, bravo, hai fatto bene a dirmelo, alle ore 21 ci sarà la grande diretta di Runtime Radio, lo speciale Ciao 2021 con Michela De Paola, Carlo Sant'Agostino e Luca Casciola, giustamente, che e forse pure Carmine Puccio voleva partecipare, insomma, quindi sarà interessante. Quindi Carlo, ancora nessuno ha preparato il Google Document, però io i brani ce l'ho tutti, quindi siamo già belli pronti e carichi per questa fantastica puntata. Detto questo, io vi ricordo di andare su runtimeradio.it, soprattutto sul tasto anch'io, e poter contribuire insomma al nostro progetto tramite una donazione, una tantum su PayPal, oppure una donazione ricorrente tramite Patreon. Ringrazio tutte le persone che in queste due settimane hanno fatto diversi interventi da questo punto di vista. Voi lo sapete, io non ringrazio mai per nomi e cognomi, per ragioni anche legate alla privacy, ma soprattutto perché ringraziare chi fa la donazione una tantum non sarebbe giusto verso invece coloro che fanno la donazione ricorrente. Insomma, metterci a fare ringraziamenti per nomi, insomma, non è, secondo me non è mai stata una cosa carina, anche se molti lo fanno. Quindi lo facciamo solo per soprannomi. Esatto, ma Ciccio, Brullo, Ercoatto, Ercaccola, Ermonnezza, Pistolone, il dottor Vagina. Ma scusa, Carlo, ma ci sono dei limiti? Cioè io posso con PayPal, non so, regalarti 100.000 euro? Tu prova. No, non puoi. Tu prova. Non puoi. Tu prova, poi vediamo se funziona. No, non puoi comunque. No. Detto questo, quindi vi ringraziamo a tutti. Grazie, grazie veramente. Io ringrazio e saluto intanto Roberto Tomaiuolo per l'idea e per la puntata. Ciao a tutti, buon virus a tutti. Ringrazio e saluto anche Carlo Sant'Agostino. Ciao a tutti e ricordatevi Archeologia Informatica, mi raccomando. Esatto, quindi sia come podcast che come canale YouTube, prima o poi cambierò anche quella famosa copertina. E ringrazio, bravo, e saluto anche Davide Gatti, Survival Hacking. Scrivete, mettete la campanella, condividete, mettete like e va fare. Amatemi, voglietemi bene. Esatto, che è la cosa. E vi ricordo comunque anch'io Archeologia Informatica, così. Esatto. Così. Giustamente. E allora io anche Delenda Cartago, così. Sì, okay. Esatto. Okay. Cose, ricordiamo le cose a caso. Grazie a tutti e buonanotte. Buonanotte.